Signori e signore, Natra Radio Roma, in collaborazione con il teatro Faranumes, Ladies and gentlemen, presenta we are Jazz proud to al present to you teatro. the season of Jazz at the Theater. In collaboration Tamia with Natra Panume, Radio Roma Natra Radio and Roma, Faranumes Vespolu Theater, Prats Zgivadan MRO, Faranume, we present to představuje you Jazz a al jazz teatro. band, Ladies and a jazz gentlemen, artist we are proud to under Creative present Commons license. Teatro We hope you a Faranumes nice evening. and also Natra Radio Roma, in diretta radiofonica dal teatro Faranume di Ostia Lido Roma, trasmette Jazz al teatro. Natra Radio Roma, in collaborazione con il teatro Faranume, presenta Jazz al teatro. Natra Radio Roma, Jazz al teatro. Natra Radio Roma, Jazz al teatro. Natra Radio Roma, Jazz al teatro. Natra Radio Roma, Allora, ti dicevo, ci vieni al teatro a sentire il jazz? Jazz al teatro? E di che si tratta? Si tratta dell'evento curato da Natra Radio Roma e si svolgerà al Teatro Faranume. Ne parlano ormai tutti, ma in che mondo vivi? Vabbè, ma lo sai te, qui insomma, a gente di... Ma perché jazz al teatro? Perché noi portiamo un altro modo di vivere la musica, solo Creative Commons. Vabbè, allora, jazz al teatro... Musica sotto licenza Creative Commons, qui al teatro Faranume. Bravo, bravo, oh, tutti lunedì alle 21. Jazz for you, jazz for us. Music as Bambera. Never alone. that I'm never alone. You know that I am. You know that I am never alone. Never alone. Never alone per iniziare e per festeggiare il compleanno dell'altra Radio Roma. È un anno. Buonasera che questa web radio nasce. E benvenuti al concerto di Decoro, Decoro e Pinozzolo Gospel. Eccoli che si presentano. Io ho sempre il fiatone dopo il primo brano, perché come avete visto noi cantiamo e ci muoviamo, battiamo le mani e vogliamo che lo facciate anche voi, se vi va, con noi per i prossimi brani. Il primo pezzo che avete ascoltato si intitolava Never Alone. Esattamente. E il prossimo che vi andremo a presentare si intitola Every Time I Feel the Spirit. Buon ascolto. Buon ascolto, ci dicono il Decoro e un'altra ragione. Buon ascolto. E caspo, soprattutto vi manda buon ascolto da Londra. Bye bye. Time I feel the spirit. Every time I feel the spirit moving in my heart, upon the mountain, the Lord spoke out of his mouth. So shine, I ask the Lord if it could be mine. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time upon this trail, it runs to heaven and then right back. Every time I feel the Spirit moving in my heart, I will pray. Every time I feel the Spirit. grazie. Ero rimasto incantato ad ascoltarvi, è veramente uno spettacolo vederli questa sera, come si muovono e cantano sul palco e ciò che fanno. Sono pronti per andare avanti, c'è chi si leva qualche pezzo, si incomincia ad avere caldo sul palcoscenico del teatro Faranume. Andiamo avanti con I Believe. God has promised us, so I believe. Do you believe? Do you believe? God has promised us, so I believe. In a world, in a world full of sorrow, you can make it on your own. Mr. Campo, come sta procedendo questa sera con i gospel? Mi dica. Sto gospendo una caparbia cosa, fra poco ci sarà la nostra pausa. Loro venivano, noi dobbiamo. E questo è il problema fondamentale. Allora, quelli che sentite sotto la nostra voce sono i Decoro. Loro sono una formazione di Roma composta da moltissimi elementi provenienti da diverse parti dell'emisfero australe e occidentale. Che cosa mi dica? Del globo, l'emisfero a forma di globo. Quindi dicevamo, oggi è la nostra festa, oggi è il nostro compleanno. Scusa Gaspo, però, come detto, l'emisfero a forma di globo. E io l'emisfero me lo immagino come un arancio tagliato a metà. Quindi come fai a trasformarlo a forma di globo? Nella stessa identica maniera che l'arancio che tu hai tagliato a metà. Sentite che voce, ragazzi. Sono proprio fantastici, cioè, ma chi ci ha avuto l'idea di portare i Decoro al teatro Faranume? Boh. Bene, dopo questa risposta noi lasciamo la linea ai Decoro sul palcoscenico. Eccoci, siamo rientrati in studio dopo questo pezzo e adesso se il concerto sta andando avanti. I Believe. L'avevamo detto. Il nostro prossimo brano si intitolerà No Mercy. No Mercy, ok. I Decoro su un'altra Radio Roma. Battete le mani con loro. Alzatele i gomiti e bevete quello che volete questa sera. Paga la Radio di Roma. Dedication. Young minds search for their identity. that wind up disillusioned and a thread travels everywhere. Precious milk that just fills the air. Whatever it takes. Che cosa ne dite? Come abbiamo voluto festeggiare quest'anno? Direi proprio bene, vero Kempone? Sì, sono proprio contento, ma chi ci porterà i regali? I regali ce li porta Cocot e Brontolo, che sono andati in giro a raccoglierli. Buon ascolto, buon ascolto. Let us pray to get the road underneath. Let us pray. Together all on our knees. When I fall on my knees with my face to the rising sun. Let us pray. let us break bread together on our knees. Let us break, let us break, let us break bread together on our knees. When I fall on my knees, with my face to the rising sun. Lorenzo Ditta, pianoforte. Bruno Corazza, il nostro direttore, solista e tutto ne ha per le mette. Radio al teatro. Bene, eccoci nei camerini del Teatro Faranume per un nuovo appuntamento con l'intervista delle formazioni che partecipano alla rassegna Jazz al Teatro. E oggi qui con noi abbiamo due elementi di una formazione composta da 30 professionisti che man mano andremo a scoprire chi sono e perché rientrano in questo evento, in questo festival. Come abitudine qui su Un'altra Radio Roma lasciamo i microfoni ai nostri ospiti per le presentazioni. Allora, siamo qui, io sono Emanuela e faccio parte dei Decoro. E io sono Francesca e anch'io faccio parte dei Decoro. E siamo pronte per rispondere a tutte le domande. Allora, visto che il tempo che abbiamo non è molto a disposizione, io partirei subito con le prime domande a raffica, che sono quelle che in qualche modo ci servono un po' per scongelare quella piccola tensione che si viene a creare prima di un'esibizione. Allora, soddisfate un attimo quelle che sono le nostre curiosità. Chiederei ad Emanuela qual è la vostra storia artistica, visto che ogni formazione ne ha una. E a Francesca da dove viene il vostro nome? Per quanto riguarda la nostra storia artistica, noi nasciamo nel 2009, e abbiamo già al nostro attivo una serie di concerti in Italia, non solo nel Lazio ma appunto in Italia. Siamo reduci da un bellissimo concerto in quel di Lecce fatto l'8 dicembre. Siamo circa una trentina di musicisti, professionisti e non, e siamo diretti da Bruno Corazza, che è anche l'arrangiatore di alcuni dei nostri brani di repertorio. Siamo anche accompagnati al pianoforte da Lorenzo Ditta. Nella nostra formazione ci sono dei solisti che operano nella realtà musicale romana e non, e la nostra formazione nasce da un altro coro che si chiamava Vocal Journey Gospel Choir, che era organizzato dalla scuola di musica L'Ottava, tutt'altra musica di Roma, ed era diretto dal maestro Claudio Fabbro, che ne curava anche il repertorio. Che salutiamo. Che salutiamo. E ringraziamo. Nei nostri cuori, sempre gospel ovviamente. Francesca? Per quanto riguarda il nome, infatti diciamo l'idea nasceva proprio da questo coro precedente, che si chiamava Coro con la K, per diciamo dei giochi, come dire, interni al coro, insomma per vicende che adesso sarebbe difficile ricostruire, come dire, lunghissime. Per cui per dare diciamo una nuova veste a questo coro, ma rimanere comunque legati alla nostra origine, abbiamo pensato a questo nome che in qualche modo poi assemblasse una serie di idee che c'erano venute, per cui i Decoro, appunto Decoro con la K, che si intende anche proprio ammicca diciamo al canto corale, allo stesso tempo al fatto che la musica è anche una sorta di decor, di decorazione, di come dire, di nota di abbellimento, e nello stesso tempo anche questo nota bene, non solo gospel, che erano, diciamo, varie idee che c'erano venute insieme, accorpate, hanno dato luogo a questa identità che ormai, appunto, gira da un po'. Ci abbiamo, ormai ci siamo dentro. Fino al collo. Ok. Rimanendo nel campo delle curiosità, chiederei a Emanuela come vi siete avvicinati al genere musicale gospel e soprattutto perché. La classica domanda da 200 miliardi di euro. Quello che posso dire è che ognuno di noi viene da un percorso differente, immerso sicuramente nella musica, ma veramente dei più disparati. Quindi quello che posso dire è che ci siamo trovati. E come? Sì, sì, e molto bene. E chi ci separa più? Cerchiamo di capire il perché di un gruppo gospel all'interno di un festival all'insegna del jazz. È un motivo, tutto sommato, io l'ho trovato, se no non avremmo proposto i decoro qui questa sera. E partiamo da questo punto. Intorno al 1620 la deportazione dei primi schiavi neri dall'Africa all'America ha fatto incontrare due tradizioni culturali, quella africana e quella americana, dando così all'originale incontro appunto del patrimonio musicale africano ed europeo. Essa trova così nella musica jazz lo spazio per far emergere la propria autenticità. Soprattutto il canto del blues e dello spiritual, e quindi del gospel, rappresenta quanto di più specifico e insuperabile dell'animo afroamericano abbia saputo elaborare, al punto da porsi non poche volte al pari, se non al di sopra, della stessa musica classica europea. Ma il gospel oggi cosa può raccontare e a chi si rivolge? Dici, Francesca. Diciamo che tendenzialmente si tratta di una, appunto, come diciamo in altri contesti, di una musica che punta molto sull'espressione e sulla spiritualità, per cui tocca delle corde anche tramite i suoi arrangiamenti, le armonie, le melodie, tocca delle corde emotive, insomma, come poi fa la musica nel suo linguaggio molto diretto. E in questo caso qui, insomma, va a smuovere tutta una serie di emozioni che si mettono in circolo, e quindi secondo noi, insomma, ognuno a modo suo, come abbiamo già detto, yes, perché l'espressione poi è individuale, però tutti insieme cerchiamo di in qualche modo creare questa grande energia che si rivolge a tutti a diversi livelli, a seconda dell'apertura, diciamo, poi che ognuno dispone e mette in gioco. E poi, diciamolo, è divertente, perché noi se divertiamo. Noi lo facciamo. Ok. Noi dell'Altra Radio Roma in qualche modo abbiamo voluto puntare molto su questo progetto, ossia quello di portare musica in un ambiente come il teatro. E abbiamo trovato un riscontro molto positivo da tutti gli artisti a cui abbiamo proposto appunto questo progetto. Questo ha fatto nascere in me una curiosità e vorrei porti, Emanuela, questa domanda. Ma se attraverso la nostra radio abbiamo avuto una tale risonanza positiva, sia dagli artisti che dal pubblico, qual è la situazione dell'arte musicale a Roma? Mi viene una parola sola: difficile, proprio difficile. Nulla, forse no, perché la musica è agonizzante e noi cerchiamo in qualche modo di tenerla viva come moltissimi altri artisti. Comunque molto molto difficile. Allora scusami Emanuela, sai, noi dell'Altra Radio Roma crediamo che l'unico giudice dei lavori di ogni artista sia realmente il pubblico, e come succede all'estero basterebbe creare molti spazi dove ogni artista possa presentare le proprie opere, e a quel punto se il pubblico accede, quindi ci va e quindi usufruisce di quell'artista, è un artista valido, altrimenti l'artista stesso capisce che in qualche modo non è accettato, non sta facendo un buon lavoro. Quindi se non c'è, come abbiamo visto, delle difficoltà enormi, no? Se non esistono spazi sufficienti, quali sono le possibilità per diffondere le proprie opere? Beh, innanzitutto noi siamo sempre alla ricerca continua di spazi in cui esibirci e abbiamo la fortuna di poter cantare nelle chiese, nei teatri, all'aperto, nei locali, direi praticamente ovunque. E poi cerchiamo anche di sfruttare i mezzi di comunicazione più moderni, tra i quali internet, i social network, molto di moda, e tra i quali, tra l'altro, guarda caso, ci siete anche voi. Fondamentali. La prima volta che ho avuto il piacere di ascoltarvi è stato in una circostanza che non sto qui neanche a raccontare. Però mi siete piaciuti soprattutto per la freschezza che mettete nell'interpretazione dei pezzi. Così abbiamo pensato, insieme allo staff, di inserirvi in questo progetto, a quanto ambizioso, possiamo anche dirlo, la diffusione della buona musica nei giusti ambienti. È chiaro che voi, che siete un gruppo gospel, siete abituati a rappresentarvi in grandi spazi come le chiese o anche il teatro. Chiedo a Francesca, ma per voi oggi che cosa significa esibirvi questa sera su questo palcoscenico? Sicuramente, diciamo che la grande fiducia che voi ci dimostrate, quindi noi ricambiamo con molto piacere e evidentemente siamo un prodotto interessante. È un proprio bel prodotto. e comunque ci piace in assoluto girare e diffondere, insomma, questo tipo di energia. E poi ci crediamo proprio tanto. Ci divertiamo. Prima di lasciarvi con l'esecuzione di questa sera, vorrei porvi un'ultima domanda e la pongo ad Emanuela. Appurato che un artista, quando si esibisce, tende ad emozionare chi lo ascolta con la propria musica, con il proprio canto, come questa sera, quando vi esibite voi, quali sono le vostre emozioni e a cosa cercate di arrivare quando un pezzo è finito? Anche questa è la seconda domanda da 200 miliardi di euro. Secondo me bisognerebbe chiederlo a ognuno di noi. Abbiamo un modo di sentire le cose che è estremamente personale e si armonizza con gli altri. Il concerto sta per iniziare. Ci andiamo a preparare. Bene, sì, a mettere in ghingheri. Niente, buon ascolto a tutti quanti. Mi raccomando, diciamo, divertitevi e seguiteci. Noi ci divertiremo, sì, sicuramente. Assolutamente. Un saluto a tutti da Dai Decoro. NB, non solo gospel. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Na, radio al teatro. My mind. talk, talk, you're gonna talk. Questo è il suo primo compleanno. Adesso vi lascio ancora a loro. Ai Decoro. Bene, bene, si va avanti su questi ritmi e su queste sonorità. Qui su Nostra Radio Roma abbiamo voluto inserire il gospel per quello che riguarda la rassegna jazz, e volevamo anche dirvi che con la ripresa del jazz oggi abbiamo un amico pittore, un artista pittore, che sta facendo un quadro in base alle emozioni che riceve dagli artisti che sono sul palco. Siamo pronti per il prossimo pezzo, Someday, qui su Nostra Radio Roma. Buon compleanno a noi, Kempone. when he calls my name. Necessariamente qui scatta l'applauso, a dimostrazione che tutti gli artisti che portano l'Arte Radio di Roma sono grandi artisti. Buonasera, volevo giusto spiegarvi un secondo che non è un infiltrato, ma è qui con noi un artista molto bravo che si chiama Luciano Rignanese, il pittore. Quello che noi facciamo un applauso. il nostro pittore di questa sera e il pittante della serata del 10 gennaio. Grazie pittante. La tradizione di Sumatra Radio Roma continuano appena che si riprende l'evento, si riprende in pieno. Era appena fatto, era Someday. Era Someday. E il prossimo si intitola Going Up Yonder. Stavolta l'ho fregata. If you wanna know where I'm going soon. If anybody asks you where I'm going, where I'm going soon, I'm going up yonder, I'm going up yonder, going up yonder to be with my Lord. I'm going up yonder, I am going up yonder, I am going up yonder to be with my Lord. I am going up yonder, I am going up yonder, to be with my Lord. If you wanna know, if you wanna know, if you wanna know where I'm going, if anybody asked you where I am going, where I am going, if anybody asked you, if anybody asked you. Where I am going soon, and if you wanna know, if anybody asks you where I am going, where I am going, where I am going soon, I am going up yonder, I am going up yonder, going. I can take the pain, the heartache that it brings, the comfort knowing has to be gone. I'm the mercy, not a celebrate, until my Savior face to face. I'm going up yonder to be. I'm going up yonder to be with my Lord. I'm going. Che fantastica esibizione, ragazzi, vi siete persi quest'oggi al Teatro Faramino. Nel ricordo del primo anno di vita di questa web radio, di questa radio fantasma, e abbiamo presentato, per quanto riguarda il concerto di jazz al Teatro Faranume, abbiamo presentato i Decoro. Stiamo giungendo quasi al termine di questa rappresentazione musicale e fra poco partirà un nuovo brano. Siamo entrati nella parte dei bis. In Altra Radio Roma vi augura buon ascolto. Bello e divertente, veramente molto divertente. Queste 1500 donne con questa sciarpa verde addosso e loro incontrollabili voci. Loro sono i Decoro e non solo gospel. E noi siamo un'altra Radio Roma e festeggiamo il nostro primo compleanno con l'aranciata. Esatto, ci siamo aperti una bella boccia di aranciata e ce la siamo strabevuta. E io penso questo, prima ci hanno detto dove possiamo trovare il file di questo concerto e poi gli abbiamo detto vi diamo le indicazioni e noi ci stiamo parlando sopra. Non credo che loro siano contenti di sentire la nostra voce sul loro cantare. Sì, probabilmente è anche vero, ma del resto noi facciamo radio e questa è una trasmissione radio e di conseguenza ogni tanto dobbiamo anche disturbarvi con la nostra splendida voce. Quello che volevo dire è che poi forse gli va detto che abbiamo un file pulito registrato senza le nostre bocciacce. E questo lo sapevo, pensavi magari di farmi un bel trucco o uno scherzo? Abbassate la voce per favore che non riesco a parlare, e dai! Si prega qui al Teatro Faranume. E la prossima è un brano poco conosciuto al mondo, un brano che conosco io, canto e loro che lo eseguono. L'Altra Radio Roma, grazie! grazie a voi per aver partecipato a questo fantastico concerto. Presentiamo i solisti dei cori nel Visto Non Solo Gospel, spero di ricordarli tutti. Giusy Zaccagnini, grande Giusy. Bruno Sergio, grande Bruno. Alex Conte, grande, grande, grande. Marina De Martino. Che cosa dire, cosa aggiungere per questo gruppo che grande ci sta emozionando? Io penso che bisogna fare veramente dei ringraziamenti a tutti i gruppi, compresi loro, che comunque partecipano ai nostri eventi, pur sapendo che comunque a volte vengono solamente a cantare. Perché comunque sì, è vero, il nostro sforzo per organizzare tutto quello che volete, però il vero sforzo è poi il vostro di esprimere la vostra arte, la vostra musica, e lo fate a volte anche solo per il gusto di farlo, e questo è ancora uno spettacolo. Lo fanno i decoro e lo hanno fatto tutti i gruppi che si sono anteceduti a loro, e quindi un applauso va a tutti questi per la loro musica underground, per il loro jazz. E adesso vi lasciamo a un brano inedito scritto questa sera solo ed esclusivamente per noi, per Altra Radio Roma e il suo compleanno, per voi, per un altro compleanno insieme a voi. Auguri tempo. Oh happy day, oh happy day, when Jesus was, when Jesus was, when Jesus was, he washed my sins away. Oh happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus was, and when Jesus was, when Jesus was, and when I said to him, oh, oh happy day. That you are, that by that way, and every time it's got a list where I can try, say, die every day. Auguri Mr. Cocot, auguri Mr. Brutto, auguri Mr. Campo, auguri a Mr. Gasperino, auguri a tutta l'altra Radio Roma. Oh, happy day. Fantastici veramente, questa era dedicata all'altra Radio Roma, perché oggi compie esattamente un anno di vita. Abbiamo spento le candeline qui al Teatro Faralume, questi applausi sono per il dottore che si meritano tutti e anche per noi che ci rimeritiamo altrettanto questi applausi. Direi che anche questa sera è stata una serata piena e ricca di emozioni. E lo so che sono in diretta, però vedo che succede se io non vedo. Lei non sa, ma lei, caro il mio campone, mi tira le cuffie. Per quale motivo? È Mr. White Rabbit. Grandi sorprese qui dal Teatro Faralume. Ci sono le mani che scrocchiano qui al teatro, potete sentirle. E anche le nostre mani scrocchiano per ringraziare i decoro. Intanto ascoltiamo l'ultimo pezzo, It Don't Mean a Thing. Non vuol dire niente, non vuol dire... Vabbè, sorvoliamo, va. Lasciamoli ascoltare. Loro sono i decoro, un applauso per loro. Thank you. Feliziano e Lisa Pezzito, che non sono stati presentati prima. Grandi, grandi, veramente. L'Altra Radio Roma ringrazia tutti i due coro per aver partecipato a questo evento. Siamo rimasti veramente contenti, contenti, contenti, contenti. E quello del nostro nome è NP, non solo Costa. Il coro! Na, na, na, na, na, na. Altra Radio al teatro.